A pane burro rock and roll, sono le 7:32. Che poi, visto che tra l'altro il nostro orologio spesso e volentieri è sbagliato, ci sta pure che sono le 7:30, cioè, un minuto in più, un minuto in meno, che state a guardare capelli. Siamo rock noi qui. Astronave è già decollata, missione 9 del mattino. Finalmente allo scoperto un gruppo d'ascolto nuovo all'alba della 110ª puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. C'è qualcuno che ha il coraggio di ammettere che ci ascolta per mezz'ora dalla tazza. Gruppo d'ascolto della tazza, ciao! Uno dei posti migliori da dove ascoltare Pane, Burro e Rock and Roll. Lo stile non va a pile, o ce l'hai o non ce l'ha. O ce l'hai o non è che metti le pile. Grazie Oscar, guarda. A proposito di gente simpatica, a quest'ora del mattino, a Milano qui è sempre più buio, i lampioni crepuscolari stanno cantando We Are The Lampions. Cazzo, come siete messi. Senti qua che ci rifacciamo. Oh, Belle d'Oca, Radio Song, R.A.M. World is collapsing around our ears. I turned up the radio. I can't hear it. When I got to the house and I called you out, I could tell she had been crying, crying. It's that same, same song. Turn it off to say goodbye, to leave in quiet radio song. Hey, hey, hey. That same, same song. DJ sucks. Makes me sad. I tried to turn it off. Turn it off. To say goodbye, my love. That radio song. Hey, hey, hey. The world is collapsing. Sing along. Damn that radio song. Man. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Everything to show. Turned up the radio. I can't hear it. Now I can't hear it. Hey, hey, hey. Say what? Hey, hey, hey. Let me do that with you. Hey, hey, hey. Who are you obeying day after day in? Huh, baby, baby, baby, baby, that's So per esperienza che a questo punto è arrivato il momento preferito dal DJ Ariele. È arrivato il momento dello spogliarello di Freak? Mi chiedevo. Me la rido sotto i baffi che non ho, peraltro, perché so benissimo che in realtà... Sono i compleanni! Gode... Eccolo lì. Lei gode nei compleanni. Ah, quest'oggi, guardi! Con che personaggio iniziamo? Era il 16 ottobre del 1854 quando nasceva uno dei più grandi scrittori e poeti inglesi, Oscar Wilde. Freak, faccia subito un commento sulla nascita di Wilde. Volentieri, perché quest'uomo ha pagato in prima persona, grande scrittore. Uno solo, un commento veloce. Beh, è nato un secolo prima di Freak Antoni. Questa è l'unica cosa che le viene in mente. Va bene, proseguiamo. Momento... 854, ha ragione, no, perché ma... lei è nato nel 954. Va sì, bene. Ma lei mi invita alla sintesi, allora. Ha ragione. Proseguiamo con un'altra attrice fondamentale. Era il 1925 quando nasceva... Che cos'è? Ah, la sigla della signora in giallo. Esatto, è lei, Angela Lansbury, che nasceva proprio quest'oggi. Amatissima anche in Italia, auguri, complimenti, benvenuta al mondo. Proseguiamo con una super rocker, era il 1938 quando nasceva Nico, cantante, modella e attrice tedesca. Ovviamente Nico è uno pseudonimo. Come si chiamava in realtà? Ma guardi, Nico dei Velvet. Lascio a lei il piacere di dirlo. Nico dei Velvet Underground. Ci provi? Guarda che chiamava, c'è la dieresi, Si chiamava... Mi raccomando. Colpo di scena. No, ecco, va bene. Si allora chiamava. Si chiamava, sì. Attenti tutti. Vediamo. Fiata le trombe. Sì. Si chiamava Rullo di tamburi. Rullo, non temporeggi, vada. Krista. Sì. Puff. Krista, c'eravamo di scena. Pefgen, per questo che probabilmente Pefgen, si chiamò Nico. Ecco perché mi fa ripetere le cose, l'avevo detto benissimo. Chiudiamo. È poco professionale farmi ripetere le cose. Ha ragione. Chiudiamo allora con un regista sì. che nasceva il 16 ottobre del 47, David Zucker, regista e produttore cinematografico. Ci ricordi subito almeno tre film. Vada. Una pallotta. Colpo di Beh, scena no, Aldo. Ce l'aveva da Freak. Andava bene. Beh, devo riflettere un attimo. Ecco, rifletta. Scelgo la busta numero uno. La domanda l'abbiamo già fatta. Deve dirci i film di allora Zucker. Quanto tempo? Poco, lo dica. Non allora, schiocchi le dita per fare il tempo. Dica i film, su quelli stupidi americani. L'aereo più pazzo del mondo. Perfetto, un altro. Le dico anche l'anno 1980 per sì, dar sfoggio smetta di fare cultura. Il tempo. Un altro. Una pallottola spuntata esatto. nel 1988. Chiudiamo con Scary Move, numero 3, numero 4. Maestro, lei le sa tutte. La ringrazio. Quanto ho vinto? Nulla. Peccato, perché ero qui solo per i soldi. 16 ottobre che sarebbe potuto proseguire nel menifreghismo generale e totale se non fosse che la redazione di Pane, Burro e Rock'n'Roll ci segnala una notizia fondamentale. Senta qui, maestro Fricantoni, era il 1923 quando Walt e, attenzione, Roy Oliver Disney fondarono la Walt Disney Company. E la redazione di Pane, Burro e Rock'n'Roll cade, trema di terrore. Perché? Ah, posso immaginarlo. Immaginarlo. Perché due furono, secondo questa notizia, in esclusiva, assolutamente sconvolgente, due furono gli inventori. I fondatori della Walt Disney Corporation. Due furono i fondatori della Walt Disney Corporation. Walt, che conosciamo tutti, Walt Disney. E Roy Oliver. Chi è Roy Oliver? E soprattutto, che fine ha fatto? Chi l'ha nascosto? Roy Oliver. Perché quando leggiamo Topolino leggiamo Walt Disney e non leggiamo Walt e Roy Oliver Disney? Oh, solo, addirittura, ma guardi, mi spingo oltre, perché non leggiamo solo Roy Oliver Disney? Che fine ha fatto Roy? La domanda gettata dalle frequenze di Rock FM al mondo intero, all'America, che finge menifreghismo su questa cosa, è: che fine ha fatto Roy? È forse esiliato in un campo divertimenti a oliare i meccanismi del castello di Cenerentola? Sta forse a Disneyland a pitturare i componenti dello steccato del giardino dei sette nani? Lo avete forse nascosto sotto il vestito o di Chip o di Chop? Ditecelo! Vogliamo saperlo! Che fine ha fatto Roy Oliver Disney? Pane, Burro e Rock'n'Roll sta dalla parte di Roy Oliver. Roy, se ci sei, fatti sentire. Whatever happened to Leon Trotsky? Shakespeare's, they watch their own burn. Whatever happened to the heroes? Whatever happened to the heroes? No more heroes anymore. No more heroes anymore. Cosa è accaduto agli eroi? si chiedevano gli Stranglers qualche annetto fa con questa No More Heroes, la diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. Allora, c'ho la raccomandazione qua, mi è arrivata via mail ad ariel@radiorockfm.com. Abbiamo un piccolo rocker all'ascolto, so che sono in tanti nel brutto tragitto casa-scuola, vi siamo vicini, piccoli radioascoltatori, ma quest'oggi il saluto con annessa strombazzata va obbligatoriamente al piccolo Tommaso da Firenze, Bagno a Ripoli, che quest'oggi mi compie 11 anni, ci scrive suo padre in una lunga mail che ci descrive il fatto, che certifica il fatto che il piccolo Tommaso ci sta crescendo bene, ci sta ascoltando i CD giusti, sul comodino a quelli precisi per diventare un vero rocker. E allora, caro Tommaso, un salutone da Pane, Burro e Rock and Roll. Voltiamo pagina, come direbbero i giornalisti professionisti, e passiamo a uno, a un nostro radioascoltatore che si sta trasformando in caso umano. Ciao Carlo della tabaccheria, bentornato. Ciao, grazie. Ciao. Giorno dopo giorno io lo sento dalle tue mail che non ci stai più credendo. Carlo, ci devi credere, almeno tu. L'obiettivo è farci diventare ricchi da un giorno all'altro giocando dei numeri che non usciranno mai. Ci proviamo, dai, teniamo duro. Allora, fammelo confessare. Nella mail disperata di stamattina Carlo confessa anche: io sono tabaccaio, ma quindi vendo fumo, ma non sono fumatore, sono poco affidabile. No, Carlo, Carlo, credici veramente e vedrai che un giorno ce la faremo. Sì, dai, se vanno così le statistiche è sicuramente una speranza prima o poi anche per voi. Poi la azzecchiamo. Scusa, e quelli che danno i numeri su Tele Sette Laghi, prima o poi li azzeccano anche loro, è una questione di probabilità, eh? Sì, è vero, ma quelli già hanno un qualcosa di particolare che li agevola, quindi no, non ti chiedo cosa e non mi interessa nemmeno. Partiamo con la tris di quest'oggi, la tripletta di quest'oggi. Ok, vai, spara. Visto dato che siamo su questi argomenti, parliamo appunto di soldi, quindi ho detto puntiamo i soldi, che è il numero 36. Perfetto. E chiaramente, siccome per ora se ne vanno tutti in fumo, puntiamo anche il fumo, visto che faccio anche il tabaccaio, quindi il 70 è il poi fumo. Fa molto rock puntare sul fumo, guarda. Ok. Basta che sia buono. E il riferimento è il 12, che è il gioco dell'otto. Ok. Posso darti io il quarto? Sì. Perché visto che da qualche giorno abbiamo questa nuova rubrica contro i calendari, farei o calannario. È il numero 31. 31, perfetto. Ma sì, dai, nella speranza di azzeccarli. Quindi ripetiamo, perché Carlo, sappi che c'è qualcuno che li gioca, eh? Male, dai. Cioè, mi arrivano messaggi o non sono usciti neanche oggi. Vabbè. Certo. A noi l'abbiamo detto, sono numeri rock. 36, 70, 12 e 31. E 31, perfetto. Lanciamo 31. L'appello però, Carlo, visto che tu non te la senti, in redazione io e Carlo, cioè in fuori onda, abbiamo deciso di lanciare l'appello a qualcuno che ci indichi i nomi dei cavalli giusti. Cioè, esatto, così almeno qualcuno che possa un pochino contribuire, esatto, alla nostra iniziativa. Sì. Diventare ricchi dall'oggi al domani. Qualcuno che abbia anche il cavallo, cioè magari quello del giro nero, che sa che quel cavallo è azzoppato, quindi, cioè uno che ne sappia, insomma. Esatto, io proprio non ci capisco niente. Neanch'io. Se no, un giorno o l'altro apriamo un giornale, leggiamo i nomi e ce li inventiamo. Va bene. Oh, okay. Carlo, credici, l'importante, dai, è quello. Dai, speriamo domani, dai, che il pianeta va lassù, che ci assiste tutte le mattine e ci guardi un pochino. Ciao Carlo, buona giornata. Ciao anche a te, arrivederci. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind. I'm a blind man, and my world is pale. the blind man cries, Lord, you know there ain't a Sabbath day. Qualche minuto fa abbiamo fatto un po' gli sciocchini, diciamolo maestro. Gli stupidotti. Ci pagano per fare gli stupidotti e a volte lo facciamo con molto piacere. Ricordavamo la ricorrenza della nascita di Oscar Wilde. Non possiamo non gettare badilate di cultura sui nostri radioascoltatori. Ricordiamo così con sufficienza. Aspetti. Dica. Ho un'immagine straordinaria. Non possiamo non buttare altra carne di cultura. Sì. Non possiamo buttare altra carne sul barbecue della cultura. Ha detto bene, anche se di mattina al barbecue ho già provato a spiegarglielo, non è l'immagine più bella, ma va bene, va benissimo. Non possiamo esimerci dal gettare altri cornflakes nella nostra tazza di latte della cultura. Esatto, non possiamo trattenerci dall'aggiungere una zolletta di zucchero. Facciamola, prego. Dove la zucchero? Nel caffè. Nel nostro cappuccino. Perfetto. Di primo mattino. Siamo così con sufficienza e con qualunquismo che da sempre ci contraddistingue, almeno qualche titolo. L'importanza di essere Ernesto. Ma il famosissimo ritratto di Dorian Gray. La Salomè. Dunque, aspetti, il ventaglio di Lady Nightmare. Il De Profundis. Ah, straordinario. Quest'uomo che ha sofferto tantissimo. Oscar Wilde è partito lanciatissimo sulle stelle ed è finito nel De Profundis del carcere di Reading, un carcere durissimo per questo che fu uno dei più famosi omosessuali dell'Ottocento, laddove in quel periodo non si perdonava la diversità nella maniera più assoluta. Maestro, le va di ricordarlo con qualche aforisma che il buon Oscar Wilde ci ha regalato? Ma naturalmente sì. Senta questo. Dica. Esperienza è il nome che ciascuno dà ai propri errori. Beh, non è male, ma le controbatto con questo: un'idea che non sia pericolosa è indegna di chiamarsi idea. E allora senta come rilancio. Viviamo in un'epoca in cui il superfluo è la nostra unica necessità. E io chioserei allora questo spazietto dedicato agli aforismi di Oscar Wilde con questo: poligamia è avere una moglie di troppo, monogamia è la stessa cosa. E beh, chi c'è? Pronto, sono Topo Rogna, la vostra cavia ribelle. Pronto, mi sentite? Tremate, umani, oggi ho scritto una lettera ai miei due fratelli che sono pantegane da combattimento nell'esercito di Topo San Marco. Sono pantegane arrabbiatissime, ribelli, super ribelli. Ve la faremo vedere noi, umani, prenderemo il potere. Tremate, umani, io sono in grado di muovere l'esercito delle pantegane, l'esercito delle pantegane cavie, delle cavie pantegane. Noi cavie da laboratorio avremo il nostro momento di gloria e la nostra libertà. Potere topo, potere cavia.